Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qua, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero e oggi preparatevi a sorridere, ma soprattutto a ridere, perché abbiamo bisogno di divertirci, abbiamo bisogno di vivere dei momenti di spensieratezza e anche di pensare, perché si può ridere, anzi si deve ridere anche pensando, perché la comicità è fatta di tante sfumature e oggi proprio di queste sfumature parleremo con tanti ospiti, in particolare con l'ospite che è qui in studio, che non vi annuncio immediatamente. Io vorrei partire proprio con una canzone che parla sì di sorriso, di risate in qualche modo, parla di del mood che bisogna avere, dello spirito che bisogna avere nelle cose, sempre propositivo e sempre ottimista, anche se lo fa in modo malinconico. Canzone famosissima ovviamente quella di Charlie Chaplin, però in questo caso la versione è quella di Michael Jackson, Smile, appunto, sorridiamo, lo facciamo sicuramente con tutti e in questo momento anche con Arturo Bracchetti. Ciao Arturo, benvenuto, buona domenica. Ciao Stefano. Allora, con Arturo Bracchetti parliamo anche di comicità per tantissime ragioni. Io non sono un comico. Non sei un comico, però hai a che fare con la comicità, certo. Costantemente. Costantemente, sono circondato da comici. che non sono i miei parenti, però proprio per lavoro. Io credo che tu abbia deciso di non fare il comico semplicemente perché fai un altro mestiere. Cioè, no, perché sono tristissimo. Sai, gli attori si dividono tra quelli che nascono comici, che come entrano fanno ridere, sì, e quelli che devono fare la spalla tutta la loro vita, perché anche se hanno delle belle battute faranno sempre la spalla. Cioè, lo scrivono. Ecco, sì, oppure fanno, ecco, è importantissimo la spalla, ecco, perché ti dà il rimbalzo a quello che poi fa ridere. Direi che è fondamentale, no? Nel duo comico la spalla è fondamentale, se no la forza è lì. Però, dico, a parte questo, tu nella tua vita poi in realtà ridi tanto, cioè sei un comico nella tua vita, sì, in generale. Sì, sono un mattacchione, faccio gli scherzi, vabbè, questo però. Perché, questo per causa dell'immaturità, perché ho la sindrome da Peter Pan e quindi mi fa fare il bambino tutti dentro di me. Ma il mio è un po' grave, perché a 55 anni pettinato ancora così, con la Tour Eiffel sulla testa, con gli scherzi in macchina, con... guarda, a volte non vengo capito, Fatto gli scherzi, la gente si spaventa, dice: ma questo è schizofrenico. Ma perché non capiscono gli scherzi? Ma li annunci che sono scherzi, poi no, alla fine. Alla fine, certo. Dico, vabbè, ma, cosa ci sta? Dice, ma cavolo, ma dai, ma mi hai fatto prendere uno spavento, ma sei scemo, ma... eccetera, eccetera. Senti, io partirei proprio, visto che abbiamo cominciato con una canzone di Charlie Chaplin, e partirei da un certo tipo di comicità, perché oggi cercheremo di capire quali sono i tipi di comicità, quali sono i tipi di sorriso che si possono avere. Sono le grasse risate, ma ci sono anche i sorrisi, c'è anche un modo di divertirsi e di essere felici interiore, ah, no? Certo, che non... si dice ridere col culo, no? Sì, cioè, no, certo, è una metafora per dire sorridere in un sorriso interno. E però che c'è, cioè, ecco. Ma fortuna, c'è, cioè, un po' inglese però. Cioè. Allora, mi è venuto in mente che proprio legato alla figura di Charlie Chaplin c'è sua figlia. Sì, Vittoria Chaplin, sì, che tra l'altro in questi giorni a Roma, forse oggi è l'ultimo giorno. Finisce oggi. Delle Cirque Invisibles. Sì, a Roma fino oggi, scusa, all'Auditorium Parco della Musica, con il marito Jean-Baptiste Thierry, che è il vero clown dello spettacolo. Ecco, loro che cosa fanno? E fanno uno spettacolo due, dove lei più che altro si è inventata dei costumi, fatta di cucchiaini, di valigie, di ruote, di biciclette, eccetera eccetera, e il marito fa diversi personaggi, tra cui il mago pazzo che sbaglia tutti i giochi o entra con un piede in mano finto e fa delle cose, cioè, è molto molto visivo. Ed è nella tradizione dei clown. Allora, se vogliamo parlare dei clown, dopo si lo facciamo un capitolo infatti enorme. Tra poco lo faremo. Perché il Cirque Invisible? Perché in realtà sono solo due persone. Sono solo due e non c'è tendone. Loro lavorano nei teatri. Lei andava sul filo fino a qualche anno fa. Cioè, lei c'è 67 anni, fino a 64 andava sul filo. È impressionante questa donnina, ragazzina ancora, magrissima, sembra veramente suo padre Charlie Chaplin, con gli occhi vispi, e faceva delle cose fisiche impressionanti. E tra l'altro loro sono nel film Clown di Fellini, nell'ultima scena, quando Fellini dice: ma allora il clown dove è finito? Andiamo al Cirque d'Hiver di Parigi, arrivano in questo circo in muratura bellissimo. Dopo ne parleremo. Sì, che ha 150 anni, e c'è un'audizione, finta naturalmente, in cui Jean-Baptiste Thierry e Victoria Chaplin fanno un pezzo del loro numero. Ed è molto strano, perché non c'è il naso rosso, nessuno cade, non c'è la buccia di banana, ma è un riso anche quello interno. Interiore. Sì. Ci sono aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare di comicità con Arturo Bracchetti nel Riposo del Guerriero. Il riposo del guerriero. Ecco, Arturo Bracchetti, parlando di comicità, è partito dal circo. Beh, no, la comicità nel mondo occidentale è partita dal... Tu sei partito dal circo prima. No, io ho fatto un'audizione per Macario ed è stata l'unica volta che ho avuto il contatto col mondo del varietà, quello all'antica. Sì. Però la comicità vera nasce nel Medioevo, quando la Chiesa cominciò... nasce negli anni... nascono con Plauto e Compagnia Bella, i greci, eccetera, eccetera. Però quella più recente nasce nel Medioevo, dove c'era le rappresentazioni religiose, c'era sempre un prete, quel prete comico della regione, che andava a fare il contadino ignorante che non sapeva i misteri della Chiesa e quindi si sbagliava e quindi diventava comico. E questo fu l'inizio dello Zanni, che poi fu il comico del 600, Zanni, Arlecchino, Righella, tutti Zanni sono. È un nome generico per dire il servo che fa ridere, il servo burlone. Era sempre un personaggio molto popolare, uno che beveva, mangiava, scorreggiava, perché le risate erano più che altro, sì, su questo, cadere la buccia di banane, così le pulci. Che fanno ridere ancora. Mamma mia, io ho visto una commedia a Londra fantastica ultimamente, si chiama One Man Two Governors, che è l'adattamento di Arlecchino, dei servitori dei due padroni, sì. E nella seconda parte c'è un uomo, un attore che sembra abbia 60 anni, invece poi ne ha 40, si capisce anche perché, che fa il cameriere ubriaco e fa morire da ridere, perché pianta delle lecche pazzesche, cade giù dal primo piano e sembra veramente un vecchietto con sto cabaret di tazze che cade giù, ed è bravissimo, e quindi per dire che funziona benissimo. La fine del primo tempo, in quello spettacolo di Londra, pensa, fanno salire una spettatrice e c'è una tovaglia che prende fuoco, e c'è un macchinista che esce fuori con questa tovaglia che prende fuoco, con questa ragazza del pubblico che è nascosta sotto il tavolo, e spara questa schizzone di schiuma, sì, beccando sta spettatrice che diventa come una torta piena di... E questa qua, cioè, ovviamente sembra un incidente di scena, ma è talmente ben fatto che sembra vero e fa morire da ridere. Ed è un lazzo, cioè una gag, il lazzo, fatta da uno Zanni, no? Il lazzo erano questi momenti comici nella commedia dell'arte, dove, che ne so, ci cercavano le pulci, addirittura c'è uno dei lazzi di trasformismo più famosi, quando Arlecchino, inseguito dai suoi creditori, entrava in una madia, sì, e si nascondeva, arrivava il suo persecutore, dice, fuori, fuori, insomma, apriva ed era Pulcinella, in 3 secondi si cambiava di vestito, ed era un lazzo, faceva ridere, a parte impressionare, ma faceva proprio ridere. E di questi lazzi, tirarsi la farina, gli schizzi d'acqua, ne poi ha usato e abusato tutti i clown del mondo. Tra l'altro, non so se la parola clown tu la conosci, no, clown era il nome d'arte di Joseph Grimaldi, un italiano che lasciò nel 700 l'Italia, andò in Inghilterra e creò il personaggio di clown, come il principe De Curtis si chiamava Totò, cioè un nome di un personaggio, no? Sì. Totò. E clown, lui divenne talmente famoso e talmente bravo e faceva talmente ridere che tutti gli altri che lo copiarono dopo si chiamavano clown, e quindi adesso è diventato un nome comune. Ma pensa che lui nel 700, ci sono dei disegni, si vestiva da cipolla, da caffettiera, cioè immagina quando uno dice ho inventato adesso, faccio morire da ridere, mi vesto da ananas e faccio un monologo, dice guarda che nel 700 si vestiva da cipolla, quindi non è che... Vabbè, vedi, non si inventa niente, si può migliorare, prendere gli spunti e ricostruire, insomma, questo è un certo po'... anche perché i rapporti umani sono sempre uguali, amore, morte, gelosia, gli argomenti sono sempre quelli, il funerale che fa ridere, il marito cornuto, sempre le stesse cose. Poi mai hai detto che Arlecchino, nascondendosi nella madia, poi ne emerge in versione Pulcinella, lui cambiamo l'accento, diventa Madia. Claudio Madia, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Ecco, Claudio Madia è il direttore della piccola scuola di circo di Milano, perché il circo non deve morire mai, assolutamente, e dobbiamo sempre che fare in modo che qualcuno cresca nel circo, anche se non nasce da una famiglia circense. Claudio. Era un sogno che tutti i bambini hanno avuto in tutte le epoche, lavorare nel circo, scappare col circo, ma non era possibile, appunto, proprio perché il circo veniva tramandato gelosamente all'interno della famiglia. Invece noi che siamo nati più recentemente abbiamo potuto sognarlo, e poi abbiamo anche potuto realizzare questo sogno, quando appunto in epoche quindi recentissime, e chiunque poteva permettersi di fare il circo, era pazzo abbastanza da provarsi, e anche perché a un certo punto sono nate delle scuole di circo, prima all'estero, in Francia, in Inghilterra, e poi anche ormai da 20 anni anche in Italia. Ecco, vita un po' difficile, diciamola, nel senso, la scuola, la piccola scuola di circo di Milano, vi hanno spostati, vi siete dovuti muovere, hanno avuto un po' di vicissitudini, no? Sì, noi in realtà siamo un miracolo. Sì, a Milano. Miracolo a Milano, perché chi mai avrebbe dato credito a due pazzi che volevano insegnare le capriole ai bambini? E in realtà, appunto, poi questa nostra pazzia ha fatto sì che noi riuscissimo ad avere prima una sede molto prestigiosa in un giardino abbandonato, in un'area abbandonata dai bombardamenti del 43 a Milano, rimasta inutilizzata fino al nostro arrivo, un'area nella quale peraltro anticamente andavano i circhi, abbiamo scoperto a posteriori. Da lì, lì è finita, è durata 8 anni, è stata una bellissima avventura, è finita, ma fortunatamente ricontinua adesso nella sede poco distante di via Messina. Ecco, allora Claudio, principalmente l'età è meglio essere giovani ovviamente e piccoli, però credo che persone anche un po' più adulte si avvicinano al mondo del circo tanto per passione, senza dover fare poi il circense come mestiere. Certo, abbiamo anche un corso di nonni che vogliono imparare a fare un po' i pagliacci, un po' di magie, naturalmente con loro meno acrobazie, ma sì. La giocoleria per esempio si può imparare a tutte le età, quindi abbiamo questo corso di nonni che lo fa con l'unico scopo di poi divertire i propri nipotini. Certo. L'animazione nelle feste. Ecco, invece poi c'è qualcuno che frequenta la piccola scuola di circo per poi fare questo mestiere? Ahimè sì, nel senso che noi non ci teniamo a imparare il triplo salto, a insegnare il triplo salto mortale, ma c'è qualcuno che poi ci riesce, non il triplo magari no, ma comunque che diventano bravissimi, uno su mille, come dice la canzone, nel senso quelli che nascono anche già con dei prerequisiti, e ne abbiamo alcuni che sono diventati poi grandi artisti, hanno vinto dei premi, lavorano al Cirque du Soleil, vanno in giro per il mondo, quindi ahimè sì, abbiamo... Oddio, adesso i genitori quando si sentono dire che il figlio scappa col circo, magari col Cirque du Soleil, sono molto più contenti di quando... Ecco sì, no? Prima era un pochino più difficile. Ecco, in questi anni, è l'ultima domanda che ti faccio, Claudio, cos'è cambiato dell'atteggiamento delle persone verso il circo? Se è cambiato, perché in Italia c'è sempre questa altalena di pensiero, no? Il circo è triste, il clown è triste. Ci sono due circhi per la verità, no? C'è il circo quello tradizionale, che per la verità ha solo 100 anni, nel senso il circo sotto il tendone, quello sì. Che per noi è il circo quello proprio classico, nasce sotto il tendone a fine... Barnum, credo, no? Sì, no? Barnum, esatto. Sì. E hanno già smesso di andare sotto i tendoni, perché anche il Barnum, anche il Soleil non usano più gli sciapito. Certo. Quindi il circo che conosciamo noi, quello che ha avuto l'epoca d'oro, è durato 100 anni. Prima, come ricordava Arturo, esistevano appunto altre forme di circhi, magari fatte appunto negli anfiteatri, ma prima ancora e da sempre esiste quello che noi chiamiamo appunto il piccolo circo, cioè un circo fatto di animali umani che mostra, che si trasformano in scimmie, in pinguini, senza in foche, esserlo veramente, triste, ma sono loro, i fatti sì. In banchi, gli artisti di strada, che ci sono sempre stati in Italia, cacciati per la verità già dal Borromeo nel 600, trovarono fortuna appunto poi come Arlecchino in Francia e in Russia, ma sempre esistiti come un fiume carsico, di tanto in tanto tornano a farsi vedere, e questo è un periodo in cui sicuramente è tornato in auge. Abbiamo bisogno, nuova sensibilità, ecco. Abbiamo bisogno di ridere da un certo punto di vista, e dall'altro forse cominciamo a volerne sapere di più ed essere un po' più colti, ecco, verso cose che invece abbiamo prima... Bisogno di sognare, di sì, sognare meno male. Qualcosa che sia oltre questa realtà che spesso sembra grigio, lo è per davvero. Va bene Claudio, grazie davvero per lo sforzo che fate tutti i giorni e che avete fatto per mantenere la piccola scuola di circo di Milano, e buona domenica ancora, auguri. È un piacere, poi. È stato un onore, grazie ciao. Arturo, vedi, gli italiani cominciano secondo me a cercare di capire, grazie anche forse al Cirque du Soleil, che nasce anche da un italiano, perché sì. Ha cominciato ad essere un nome famoso, mm-hmm. Allora la gente curiosa ha cominciato ad andare a vedere cose che prima non sapeva anche che esistessero, no? Sì, ma poi sono state rivestite le cose del Cirque. Il Cirque du Soleil è nato a Montreal da un gruppo di fricchettoni, ex fricchettoni, che adesso hanno la nostra età e che sono miliardari, questa è la grande differenza, che negli anni 80 hanno cominciato ad andare sui trampoli a fare degli spettacoli di strada, poi hanno chiesto allo Stato del Quebec una sovvenzione statale, gli è stata data, e hanno incontrato Franco Dragone, questo italo-belga che era lì per caso, e hanno messo insieme il primo spettacolo. È bello perché noi in arte del circo, arte di strada, la magia, gli italiani sono sempre stati i primi, sempre. E poi a un certo punto, ma noi, guarda, ciao, che veramente dobbiamo andare all'estero un poi popolo, per... A parte che gli italiani fanno ridere da morire, già vai in giro a parlare con un accento italiano e tutti già ridono. Poi, per carità, abbiamo anche dei grandi comici internazionali, anche nella nostra politica, senza fare nomi, ma ogni settimana, specialmente adesso, sono ritornato in Francia in una trasmissione televisiva. Dice: allora si ride di nuovo in Italia, perché in Canada, ti ricordi, forse te l'avevo già detto, c'era due anni fa un telegiornale che ogni venerdì sera dice: cosa ha fatto questa settimana Berlusconi? Ed era la barzelletta della settimana del telegiornale. Questo accadeva, avevo modo di parlarne anche nel corso della puntata, fra l'altro oggi. Tu sei qui anche in veste di regista, sì. Per adesso non svegliamo, gli ascoltatori lo sanno già, ma non lo diciamo subito, c'è la pubblicità e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di comicità con Arturo Bracchetti, perché è regista del nuovo spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo. Sì. Ammutta Muddica. Ecco. E che tutti mi chiedono cosa vuol dire. Certo, avrei voluto chiedertelo anch'io, ma ho scoperto che sono stati gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo a spiegarmi il significato. Ma lo spiegano ogni sera all'inizio dello spettacolo, perché il 90% degli spettatori non lo sa. La gente lo vuol sapere. Il titolo dello spettacolo Ammutta Muddica. Ammutta Muddica. Mi domanderete, perché? Ma perché questo titolo così strano, così terrone, incomprensibile? Così. Sì. Esatto. Io vorrei spiegarlo, perché insomma Ammutta Muddica mi appartiene. In quanto ammut dal latino ammutta dalla, scusa, mi fai confondere, quando mi guardi così mi fai confondere. Non ho detto niente, ma intanto aspetti l'errore delle persone per attaccarti e rompere i coglioni. Scusate. Ammut, che dal latino spingere, a spingere. Muddik dal greco antico mollica. Antico, dal greco antico, sì, mollica. Perché, cosa vuol dire? E insieme vuol dire spingi mollichina, che è un monito di tutti noi italiani di spingere in questi momenti di crisi. Darsi da fare. Bravo. Sì, in effetti anche noi, io e Giacomo, da grandi lombardi, avevamo pensato a un titolo diverso, che era Disciules, che vuol dire dai, dati da fare. E poi è un po' la stessa cosa. È la stessa cosa. Però insomma, abbiamo fatto un po' le primarie del titolo, siamo andati a votare domenica scorsa e ha vinto Ammutta Muddica. Da solo. Cioè il 33% del terrone mi vince contro il 66%. Che cosa vuoi dire? Come mai? Che forse ci sono dei brogli elettorali. O fra voi due c'è un franco tiratore. Tu, Giovanni? No, io no. Ecco, così noi li ha messi anche in mezzo. Allora, non so neanche, è vero quello che la spiegazione è reale, Arturo, o è finta? No, significa veramente quello? Significato giustissimo. D'Aldo, Gianni e Giacomo non sanno cosa aspettarsi. Invece l'hanno deciso poi tutti insieme. Beh, questo è ovvio, immagino di sì. E com'è fare la regia a dei comici? Da parte di uno che hai detto tu non è un comico, sì, capito? Ma come non credo, nasce come non è comico. Importante, cioè secondo me è importante che io non sia comico per poter vedere meglio perché è come far fare una torta da un golosone, finisce che poi se la mangia la metà, vuole metterci, invece deve essere su rimanere fuori dalla cosa, sì. Certo. È che loro, per esempio, ecco, Aldo, Giovanni e Giacomo è un chiaro esempio in cui Aldo e Giovanni arrivano da una scuola di circo, anzi la scuola abbiamo nominato prima. Ecco. Sì. E quindi hanno proprio una fisicità comica già studiata, eccetera, eccetera. E poi si è aggiunto Giacomo. E loro tre hanno una grande dono dalla natura, che sono già buffi di natura. Sì. Questo è un enorme regalo. Cioè Benigni è buffo, loro tre sono... Altri invece no, sono divertenti per quel che dicono. O le attitudini, o le interpretazioni. Ma loro come entrano... Anche durante le prove arrivano tutti magari normali, come sono dei cinquantenni, parla e di colpo ritornano tredicenni, si scatenano e in effetti durante le prove ridiamo moltissimo, no? con scene in cui poi non amano molto provare più volte la stessa cosa, perché in effetti il comico come si deve fanno quasi loro, improvvisare sempre, pur non improvvisando. Dopo un certo periodo non si improvvisa più, però per costruire gli sketch si parte da un'improvvisazione. E chiaramente fai un pomeriggio di improvvisazione, dopo 4 ore non sai più che cavolo dire. A fare la stessa cosa, quindi magari Aldo si comincia a coricare per terra, basta, ci fai lavorare troppo, Negriero, queste cose così, ma fa parte del teatro che mettono in scena per divertirsi. Ecco, perché voi non sapete, c'è un lato di Arturo, in realtà di grandissima precisione, perché quando Arturo fa il regista, quindi si mette dietro le quinte, diciamo così, pretende, ma giustamente, che sia tutto perfetto. Cioè, pretendo, sei rigorosissimo, soprattutto, ma devi essere così. Lo spettatore di ieri riceva lo stesso spettacolo di oggi, non come ai tempi gloriosi di Walter Chiari, dove cambiava ogni sera. Una sera era meraviglioso, ma anche lui stesso. La sera dopo ogni sera, arrivava tre quarti d'ora in ritardo, il pubblico gli diceva, lui grideva vaffa e così via. Cioè, quelli di ieri hanno pagato come di oggi, perché non. E poi dopo loro arrivano dal cabaret dove allo Zelig magari ci si divertiva veramente con una sedia, due paraventi, eccetera. Adesso hanno un grande apparato scenico, quindi ci sono luci, effetti speciali, proiezioni. Sì, c'è un camion in scena che si muove, tra l'altro. Quindi tutto ciò deve essere coordinato giusto, se no il fonico non fa partire la musica giusta, se no non si sa quando finisce il teatro. Lo è una macchina complessa. Bisogna, cioè, magari si vede solo sembra una persona facile in scena o due, ma in realtà alle spalle c'è moltissimo lavoro. Daniele Giacchetta, buona domenica. Buona domenica. Anche uno fra gli autori di Otto Volante, un programma in onda su Radio 2 che parla proprio di comicità e di cabaret in particolare. E quindi allora tu ovviamente, Daniele, vedrai cabarettisti su cabarettisti, perché voi mettete in onda pezzetti, andate a cercare. Com'è cambiato il cabaret nel corso di questi anni? Se è cambiato, se poi alla fine i meccanismi, ma forse sono sempre gli stessi, ma il modo che può essere diverso. Sì, Otto Volante è un privilegio per chi lo fa, secondo me, perché è l'unico contenitore di cabaret alla radio e quindi dà modo agli spettatori, agli ascoltatori, ma anche a chi lo fa, di, come dire, tenere un po', avere il polso della situazione del cabaret in Italia. Ma noi sì, andiamo a cercare anche giovani, non soltanto artisti affermati, conosciuti anche in televisione. Io credo che in realtà non ci sia poi molto di nuovo nel cabaret in Italia. Non è detto che sia una cosa negativa questa, nel senso che sì, continuano alcuni stili, alcuni sottogeneri del cabaret che comunque hanno fatto conoscere al grande pubblico questa arte, per qualcuno minore. Certo è che i giovani forse in alcune occasioni, in alcuni casi, vanno un po' troppo a rimorchio. Cioè, copiano un po' troppo. Arturo, cosa pensi di questo? Penso che molti giovani, anche quando li vedi a Zelig, cioè il riferimento è quello che hanno visto in televisione, cercano di replicare la stessa cosa. E poi cosa. È un repertorio cortissimo. Sì. Cioè, quando vedi uno sketch fantastico di due minuti a Zelig o in altre trasmissioni, poi dici, cavolo, questo qua mi farà divertire. No, poi un'ora non regge. Dopo un quarto d'ora non lo sopporti più. Sì. Io ho visto dei comici anche famosi che dopo 20 minuti la gente si alzava e questi poveretti, dove vai? Questi, il spettatore, devo andare in bagno, pur di uscire dal teatro, e questo è penoso, no? E vuol dire che queste sono però purtroppo il frutto di questo zapping comico di Zelig o anche su internet. Dura tutto con pochissimo, due minuti 90 poi secondi, basta. Cioè, invece costruire un testo più lungo è sicuramente infatti molto i comici più che restano sono quelli che sono arrivati a 40 anni con il materiale, con il bazooka. Ecco, no? Voglio sapere, Daniele, se è vero quello che dice Arturo. Io sono d'accordo con lui. Ecco, appunto, poi, il comico si vede dal vivo, si vede in televisione, non si ascolta alla radio, per capire se un comico ha repertorio, ha esperienza, ha idee, va visto dal vivo, va visto nel localino, va visto in teatro, questo è indubbio. È vero, sì, la televisione, i laboratori che circolano intorno alla televisione, i laboratori sono, no, appunto, dove si va a provare i pezzi, diciamo, a provare così, i pezzi, i numeri. Troppo spesso, magari, purtroppo, pezzi pensati per la televisione. Sì, durano qualche minuto, a volte qualche secondo, 30 secondi, 40, e a volte appunto sono addirittura più corti, e certo fanno ridere perché entrano a schiaffo, come si suol dire, la battuta arriva, poi però esce, ecco, non reggerebbe più di quel tempo. Daniele, senti, c'è molta differenza fra la comicità del nord, del centro e del sud? Ma credo... O la televisione le ha un po' standardizzato tutto? No, credo che ancora delle differenze ci siano, che sono quelle dell'inizio, molto probabilmente. Nel centro-sud, Roma, Napoli, credo vada ancora per la maggiore la satira di costume, la satira sociale. Sì. Non so, la crisi, oppure vado al supermercato e mi succede questo, vado al parco, per dire sto improvvisando con mia moglie e mi succede questo. Questo anche tra i giovani ancora, come dire, è un mood, se così posso dire, che continua. La comicità del nord, partendo dai tempi del derby, poi fino ad oggi, è magari più surreale, più rarefatta. Sono e credo sia modo, come dire, di immaginare un po' più rispetto a quella del centro-sud. Ecco, poi dipende quindi anche un pochino dalla vita sociale che si conduce quotidianamente, dagli input che si hanno, forse? Ma forse un'abitudine, no, che viene da più lontano. Sì, sono d'accordo con te, tanto è vero che io sono di Torino e secondo me Torino è la nostra regione Piemonte, è la più vicina al teatro dell'assurdo, che è francese, e quindi noi, essendo più vicini alla Francia... Quindi è proprio un fatto di confini. C'è certe cose proprio di dei comici che fanno ridere solo a Torino perché sono surreali, certo. E dici, che ne so, sono un sacchetto di carte, fanno un monologo di io sono un sacchetto di carte, capisci? Che magari in altre regioni li guardano allibiti. Non farebbe ridere assolutamente. No, penso, non so, ai Gufi, gruppo... comico degli anni 60 che andavano in scena con una calzamaglia nera e potevano interpretare qualsiasi personaggio. A Roma c'è questa caratterizzazione anche del personaggio, il nome preciso, il costume adeguato, forse si lascia un po' meno, come dire, la possibilità allo spettatore di avere un po' più di fantasia. Sì, di immaginare, ecco, è un pochino più caricaturale e meno di immaginazione. No, se si pensa adesso all'esperienza del Bagaglino e di altri locali simili dove si faceva satira di costume, satira sociale, anche satira politica, interpretando, molti se lo ricorderanno in televisione e le varie trasmissioni di Pingitore, Pippo Franco e gli altri, quel personaggio o l'altro personaggio politico ben caratterizzato, ben studiato, a volte anche nell'imitazione, ecco. Questa è una cosa molto, molto romana che ancora regge in fondo, sì. Grazie Daniele Giacchetta, ancora buona domenica e buon Natale, visto che poi mancano 2 giorni. Grazie, grazie a te, ancora. Grazie a voi. Ciao. Ecco, quindi proprio differenza di atteggiamento mentale sulla comicità. Uno si aspetta una cosa perché... Diciamo che la commedia all'italiana più che altro rispecchia l'umorismo del sud. Sì. Cioè all'estero ciò che fa ridere l'italiano è quello. Che è diventato mai un cliché, ma ovviamente. Sì, quello di Totò, cioè proprio quella comicità dell'italiano che ride nella tragedia. Tra l'altro Totò e altri comici del sud hanno questa fantastica capacità di fare ridere poi anche con quella melanconia interna, che è difficilissimo, no? Ma pochissimi ci riescono e sono i geni, però è proprio parte del sud, perché la gente nel sud anche nella disgrazia spesso riesce a tirare di a mutta mutica, no? per esorcizzare, certo, sì. Per andare avanti col sorriso alla Infatti fine, come abbiamo detto. A Napoli rido moltissimo, davvero. A Napoli ci sono delle cose divertenti. Che ne so, a Napoli c'era un'edicola, adesso non l'hanno tolto, c'era un pannello davanti a un'edicola, davanti a una cattedrale, e dice: giocate qui al lotto, qui in questa edicola, in questa città, in questa piazza, non ha vinto mai nessuno. Ma che questo ha speso 50 euro per mettere su questo pannello, vuol dire che tu potresti essere il primo, hai capito? Certo, oppure la famosa frase al mercato: mandarini arrubati 20 centesimi al chilo, perché implica tutto un meccanismo, dici, perché costano poco? Ah, perché sono rubati? Solo a Napoli. Allora, ci sono aggiornamenti sul traffico, poi torniamo a parlare di comicità, tornando anche un attimo su Aldo Giovanni Giacomo. Il riposo del guerriero. Parliamo sempre di comicità. Arturo, io vorrei far sentire gli ascoltatori, tu la conosci a memoria, un altro pezzetto di un altro spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo, di cui tu hai curato la regia, che era Unplugged, scritto Un, proprio Unplugged, scritto e letto come si pronuncia, dove tu hai fatto una piccolissima parte, senza dire niente, hai fatto solo una faccia. È arrivato il momento di aprire la buste dei vincitori, vedete? Oh la merda, ma quanta colla hanno messo? Signore e signori, i vincitori sono Aldo Baglio e Giacomo Poretti. Abbiamo vinto l'Oscar. Si è dimenticato Aldo. Il mio nome. Ma poi che... Ciccia. Giacomo. Aldo. No, siamo un trio. Mettiti giù. Siamo un trio. Vai fuori, mettiti giù. Ecco, allora qui adesso teniamo sotto, intanto vi raccontiamo cosa succede, perché chiaramente andrebbe anche visto. Ma ormai la gente lo sa. Aldo e Giacomo sono sul palco, invece Giovanni rimane. Sì, per lo stesso film vengono premiati in due, non in tre, e quindi c'è strano. E quindi l'altro si ribelle. Cioè. Tu entri in scena consegnando un Oscar. Sì, vestito da cameriere, sì. Ma esatto. Ogni tanto lo faccio, anche in questo spettacolo, lo faremo il giorno delle riprese televisive, perché a marzo riprenderemo. L'Oscar è molto bracchettiano, posso dirlo? L'hai lo studiato sketch. Tu? No, non lo sketch, proprio la statua dell'Oscar. Ma lui c'è un pacchetto più grosso del mio. No, e poi ha in mano proprio due grandi sfere, giusto? Sì, quello sì, l'ho disegnato io. Infatti, immaginavo quello che fosse una tua idea. Ma io mi diverto con Aldo, Giovanni e Giacomo, perché si possono fare delle clunerino, queste gag proprio esagerate alla Mr. Bean, perché a loro piace molto anche Mr. Bean come personaggio, che poi figlio di Monsieur Hulot, francese, Jacques Tati, eccetera, quella comicità un po' mimica, surreale, nord-europea. Però loro sono affascinati dal Monty Python, quindi se si possono fare delle gag visive, adesso per esempio nel nuovo spettacolo ci sono dei momenti, c'è un momento in cui Giacomo fa il robottino, entra in una specie di... non devo raccontarlo, sì, sketch, certo, esplode e ne scende fuori con la testa in mano. A loro piace molto questo, oppure non so se ti ricordi, nei corti c'erano i tre astronauti che arrivavano, sì, con questo no, tubo che andava da uno all'altro, finiva e partiva dalle chiappe di uno, finiva nel boccaglio dell'altro, che guardava il pubblico, come dire, perché proprio a me? E queste cose mi divertono. E loro sempre accettano spesso. La presentatrice degli Oscar è Silvana Fallisi. Ma anche in questo spettacolo, esatto, ci sarà anche Silvana. In questo spettacolo. Sì, fa una infermiera russa nell'ospedale da morire da ridere. Porca troica! Parla così, no? E pesa 120 kg e sposta i malati, i morti, tutti come se fossero sacchi di patate. È bravissima Silvana. Senti, tu parlavi anche di una scuola a Torino, parlano di mimi, se non mi sbaglio. Sì, per esempio, sì. Se uno vuol fare il commediante, sì, proprio la parola commediante, che vuol dire l'attore comico, un po' fisico, eccetera, di scuole in Italia non ce ne sono tante, perché sono tutte scuole di teatro abbastanza serie, paludate, Pirlandello e compagnia bella. Invece a Torino c'è una scuola molto alternativa, sì, che si chiama Atelier di Teatro Fisico, che è in via Carmagnola a Torino, e che crea proprio, ci sono dei corsi di clowneria, di cascata, di mimo, a parte la giocoleria, eccetera, eccetera. E dalla scuola di Torino sono venuti tantissimi artisti di strada che girano anche, a parte quelli che invece fanno più fortuna altrove, ma anche che girano con dei numeri, con dei pezzi di sulla strada. Torino è una delle rare città in Italia dove è possibile esibirsi per la strada senza permessi, i vigili non ti mandano via, infatti da noi ci stanno ormai anche dei performance ai semafori, ma tanti. Ne hai già visti a Milano, ce ne sono? Nei semafori no. Ai semafori? A qualcuno, a Torino... con la giocoleria, sì, fondamentalmente, sì, ma ce con ne... le cave, a Torino ho già visti già 4 anni, qui che non mi... in altre città anche europee l'ho mai visto. E infatti, insomma, sono sicuramente un modo per sorridere quando si aspetta il verde, no? Al semaforo, e poi ma volentieri poi, almeno si gente danno... che ha imparato a fare una cosa bene. Io concordo, poi sai cosa penso dell'artista da strada in generale, dell'arte da strada. Io volevo parlare anche, prima di chiudere con te, di Magico, che è questo spettacolo di cui tu curi la regia e non soltanto, anche il contenuto. Ecco. Sì, Magico è uno spettacolo sì, che abbiamo fatto come esperimento a Torino. Sulla magia e dintorni c'è un po' molto varietà, e per quanto riguarda la comicità ci sono due comici italiani, i Lucchettino, Luca Regina e Tino Fimiani, che ripercorrono un po' degli sketch del varietà di una volta, però reinventati in un'altra maniera. E ne sentiamo un pezzettino. Si inizia, pronto? Si inizia. The jongleur with the hat, okay. Le jongleur avec le chapeau. Signore e signori, il cappello con i... Per iniziare, il cappello con i... Il cappello con i... Il cappello con i... Gli. No, gli, con i... I conigli. Ma che conigli? Non so. I conigli. Noi cosa siamo? Due gio? Due gio conigli. Due gio conigli. Cosa siamo? Non so. Due gio co? Due co? Due coglioni. Due coglioni senz'altro. Ecco, loro sono un duo comico, sì, che è nato come tale o no? Sono nati con strade diverse, poi tu li hai messi insieme? Vengono dalla scuola di circo, della scuola di Torino, dell'atelier di teatro fisico. E hanno fatto anche spettacoli in Russia, parlando italiano, sì, in Grecia, in altri... Ma sono molto bravi. Sono molto bravi, poi fanno molti pezzi visivi, giocoleria, numeri di cappelli. Infatti io devo dire che scegliendo questo pezzetto da far ascoltare in onda ho fatto fatica, nel senso che è molto più visivo, certo, e quindi non potevo far ascoltare qualcosa che si possono vedere. Però ma ce l'ho fatta a prendere un pezzettino che credo che gli anche l'idea per loro. Ho anche fatto un'altra regia del loro one man show, sì, due mesi fa, e che adesso è in giro per l'Italia. Si chiama Ecco, sono il loro one man show a due, ed è un one man show molto carino, devo dire. Visto che tu sei anche in scena, sì, il pubblico sta cambiando? Ma come dire, visto che più gente ha accesso al teatro e al biglietto teatrale, mentre magari 50 anni fa chi andava a teatro era una persona di una certa cultura e quindi chiedeva anche dal comico non la volgarità, sì, o l'ironia, la referenza colta. Adesso invece no, siccome il grande pubblico del teatro comico adesso è tutti, gli studenti, la gente normale, quindi sta cambiando, è molto più popolare adesso, ma è bene così, perché è rimasto comunque il pubblico d'élite che va a vedersi delle cose più raffinate, ma per fortuna alcuni comici riescono veramente a far ridere tutti. Poi devo dire che Aldo Giovanni Giacomo o altri che sono comici di sé, di per sé fanno veramente ridere il mondo, perché sono universali. Uno sketch di Aldo Giovanni Giacomo che dopo 20 anni fa sempre ridere. È vero, ce ne accorgiamo con... Ma è rarissimo. Proprio riguardando le vecchie cose, del Kill Teloon, sì, e altro ancora. Tornando indietro, per chiudere abbiamo 2 minuti, volevi parlare di Mimo, vero? Beh, anche il Mimo fa parte ovviamente del mezzo col cui l'attore comico può far ridere. È una cosa che curiosa, che non sa nessuno, è che in questi giorni ero a Parigi al Musée Grévin, al Museo delle Cere, no? Perché mi fanno la statua di cera, sì, che cambia costume. Col ciuffetto? Sì, cambia costume. Allora sono andato a vedere la prova della mia faccia, gli ho dato un bel bacione. È veramente impressionante, perché mi somiglia proprio, sono io. E mi raccontava la direttrice che il giorno che fecero la statua a Michael Jackson, visto, sì, che abbiamo sentito la musica prima, gli fecero una sorpresa, perché fecero venire Marcel Marceau, il mimo francese, che gli aveva insegnato la moonwalk 20 anni fa. Quindi la moonwalk di Michael Jackson è una camminata che inventata da Marcel Marceau, ormai morto, negli anni 50. Quindi, perché infatti è assolutamente mimica. Pensate, certo, io ho sempre pensato che l'avesse inventata Michael Jackson, oppure che... uno dei, sì, suoi. Beh, però lui insomma era molto bravo anche a inventarsi le coreografie. E in invece generale se l'ha inventata Marcel Marceau, che è un mimo, se tu lo vedi proprio, è il mimo con la faccia bianca alla francese, con gli occhietti dipinti, e si trova in tutte le enciclopedie, eccetera, eccetera. Quindi ho scoperto una cosina, una chicca. Quando sarà pronta la tua statua? La mia statua, se non fonde prima. No, deve. La temperatura la tengono, sì, giustamente. No, sarà pronta a Montreal a giugno e a Parigi per Natale dell'anno prossimo. Come fa a cambiare vestito? Gira su se stessa? Sì, bravo. Quindi è una cosa che non posso fare. La testa e i piedi rimangono lì, ma il corpo ruota, c'ha due facce. Un po' come io, ma non nella vita. C'ho la faccia come il di dietro. Grazie ad Arturo Bracchetti e insomma buon Natale, perché mancano 2 giorni, per cui gli auguri, anche buon anno se non ci vogliamo prima. Grazie di essere qui, insomma complimenti per siamo tutto, ancora tanto... vivi dopo la fine del mondo, cosa vuoi di più? Ecco, poi se succederà quella cosa oltreoceano non avremo modo di raccontarla. Con piacere. E con questo si chiude la puntata del Riposo del Guerriero. Io vi aspetto ovviamente domenica prossima alle 10 con un nuovo appuntamento. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Valeria Bernardi e Matteo Comes in regia, e a voi, e soprattutto buon Natale a tutti da Stefano Gallarini.